Parlare di sottomissione nel XXI secolo è come aprire il vaso di Pandora. Quando ero bambino, i figli erano sottomessi ai genitori con un rigore militaresco, a scuola si era sottomessi, spesso a suon di bacchettate e di punizioni corporali non indifferenti, mentre una moglie in genere era sottoposta al marito con una sottomissione schiavizzante. Inoltre, fin dalla mia fanciullezza, ho notato che la religione cattolica imponeva la propria egemonia religiosa nell'ambito della cultura, negli spettacoli, nella morale e in ogni settore della vita. Ho constatato pure come il cittadino era ancora sottomesso alle autorità civili, con il terrore ancora respirabile della guerra. Tutto questo, all'inizio del XXI secolo, è stato spezzato e abbandonato, e se da una parte è stata una conquista, dall'altro notiamo che i figli non sanno più cosa sia la sottomissione ai genitori a scuola. Gli studenti sono irriverenti nei confronti degli insegnanti, le mogli credono di avere trovato la libertà per mezzo di una certa emancipazione economica, la religione cattolica in molti ambiti è stata imbavagliata e i cittadini non temono più nessuna autorità. Sembra che si sia trovata la completa libertà da ogni forma di sottomissione, ma la libertà totale non esiste. Eppure a noi piace pensare di essere completamente liberi, perciò tutti ad un livello più o meno personale vogliamo le nostre libertà. Vogliamo la libertà dalla ristrettezza e dalle paure, libertà di parola e di religione, o non religione, libertà se possibile dalla preoccupazione e dalle malattie. Alcune persone nella nostra cosiddetta società permissiva vanno anche oltre, vogliono praticamente la libertà da ogni restrizione morale, intellettuale e sociale. Ma la libertà da ogni restrizione non è affatto libertà, perché essere schiavi della non restrizione. Quale orchestra ha mai prodotto un suono degno di essere ascoltato quando i componenti stessi hanno suonato quello che ad ognuno piaceva nel momento in cui lo ritenevano opportuno? Quale squadra di calcio ha mai fatto un gioco degno di essere guardato se i giocatori fanno il proprio gioco individualmente? Quale artista ha mai prodotto un quadro, o quale scrittore un libro memorabile, lanciando colori a casaccio sulla tela, o buttando parole sparse sul foglio? Sì, dobbiamo accettare che la libertà totale non esiste. Perfino i paracadutisti in caduta libera sono liberi di cadere, ma all'ingiù e non all'insù. Se ci si libera da ogni forma di sottomissione, i risultati sono nefasti. Quando un fiume rompe gli argini, non si ha un fiume libero, ma solo inondazioni e pantano. Quando gli esseri umani gettano via ogni ritegno, non sono liberi, perché la libertà non è solo al negativo. La libertà non è assenza di ogni controllo, ma è qualcosa di molto più positivo. Sembra che oggi le persone siano insoddisfatte di quello che sono, a causa della consapevolezza delle proprie intrinseche limitazioni di esseri umani. Ma se non sono esseri umani, non possono essere altro, non possono essere né animali né dei. La ragione per la quale oggi molte persone sono frustrate è che esse sottovalutano la loro umanità. Agiscono come animali, lasciandosi trasportare da ogni istinto naturale, sopravvalutando la loro umanità. Oppure cercando di comportarsi come dei, pensando di essere in grado di controllare e dirigere i loro affari e quelli del mondo intero. Non possiamo farlo, non possiamo essere felici come animali e non possiamo essere felici come dei. Perciò il tema della sottomissione è uno degli argomenti fondamentali della vita, inoltre uno di quelli costantemente evidenziati dalla Scrittura, perché essa scaturisce direttamente dalla Trinità, dove Cristo è sottomesso al Padre. Dove non vi è sottomissione non vi può essere ordine. Purtroppo anche questo argomento spesso è stato affrontato con superficialità, causando non poche difficoltà. Innanzitutto, essere sottomessi non significa ubbidire sempre. Un esempio lo sono Pietro e Giovanni quando disubbidirono alle autorità religiose pronunciando con rispetto: «È meglio ubbidire a Dio anziché agli uomini» Atti 4:19, 5:27-29. È lecito quindi disubbidire all'autorità quando questa ordina qualcosa contro la volontà di Dio? Perché la sottomissione è riferita all'ufficio, e non alla persona. In sostanza, la stima e rispetto e l'ubbidienza non sono dovuti alla carica della persona, ma alle qualità spirituali che egli possiede. Nell'Antico Testamento la parola del sacerdote doveva essere considerata come parola di Dio, ma in seguito, quando i sacerdoti si sviarono dalla legge divina, fu Dio stesso a metterli da parte e condannarli severamente, così che la loro parola non aveva più autorità per il popolo. Malachia 2:1-9. Questo spiega perché la sottomissione si riferisce all'atteggiamento di spirito, in quanto non si deve inveire né maledire chi è autorità. Ribellarsi alle autorità significa di fatto rivoltarsi contro Dio, perché esse sono stabilite da Dio. Quindi una moglie, un cittadino, un credente in una chiesa, un figlio, sono chiamati a essere sempre sottomessi, ma qualora un ordine sia palesemente contrario al volere di Dio, può nascere il rifiuto pur col dovuto rispetto. Con una puntualizzazione però. Il rifiuto rientra nel suo giusto spirito quando si accettano le conseguenze di questo atteggiamento da parte di Dio. Infatti, quando gli apostoli furono messi in prigione e picchiati perché disubbidirono alle autorità preposte, si rallegrarono di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. Atti 5:41. Proprio perché la sottomissione riguarda ogni settore della vita, anche la sottomissione della donna all'uomo rientra in una normale analisi del tema, e a nulla serve alterarsi o inalberarsi. Leggiamo ciò che sta scritto nella parola di Dio. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare, né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia essa sarà salvata partorendo figli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. 1 Timoteo 2:11-15. Questi comandamenti di Paolo hanno dato sempre del filo da torcere agli studiosi, e se non fossi credente direi che si tratta dello sfogo di un maschilista che non sopporta le donne. Ma grazie a Dio, le cose non stanno così. Innanzitutto bisogna considerare perché Paolo si esprime in questo modo, poi comprendere cosa vuol dire che la donna deve imparare con sottomissione e non può insegnare, né usare autorità sul marito. Perché Paolo si è espresso in questo modo, lo dice lui stesso, perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figlioli, se persevera nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Ancora una volta Paolo si rifà al libro della Genesi. Il discorso e i principi che Paolo detta, quindi, sono basati non su un punto di vista o su un costume, ma su un principio scritturale e storico. Questo aspetto dovrebbe essere preso molto sul serio da coloro che ritengono la parola di Dio un semplice codice morale o che gli avvenimenti descritti non sono accaduti letteralmente. E bene ricordare che i veri nemici del cristianesimo non sono gli increduli o i religiosi che si oppongono al messaggio di Cristo, ma sono coloro che professano di credere in Cristo e poi ne negano la concretezza del messaggio. Secondo una certa teologia distruttiva, gli avvenimenti descritti nella Bibbia non sono successi letteralmente, ma sono semplicemente immagini per comunicare un non so quale messaggio. Tali false dottrine invitano i lettori della Bibbia a non considerare letteralmente ciò che leggono. Ma sia Gesù che gli apostoli presero alla lettera ciò che troviamo descritto nella parola di Dio, e soprattutto ciò che è scritto nel libro della Genesi, ai primi tre capitoli. Per molti è un enigma conoscere da che cosa la donna sarà salvata, al punto tale che ho sentito una donna tutta sconsolata affermare che la prima cosa che farà quando andrà in cielo sarà quella di chiedere a Paolo il significato delle sue parole. È chiaro che non aveva compreso la parola salvata perché, come per tante altre persone, la vedeva applicata solo alla salvezza dalla perdizione eterna. Ma se il verbo salvare si riferisse solo alla salvezza dalla perdizione, allora bisognerebbe concludere che solo le donne che partoriscono vanno in cielo, perciò la parola salvezza nella Bibbia ha più applicazioni, tra le quali anche allo sfuggire alla corruzione di questo mondo. Ed è con questa intenzione che Paolo si è espresso. Infatti, in seguito dirà a Timoteo: bada a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, cioè essere di esempio, leggere la parola di Dio, insegnare, eccetera. Perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. 4:15. E, risaputo che le opere non salvano dalla perdizione, ma è anche risaputo che è indispensabile leggere ogni giorno la parola di Dio e avere un cammino retto per essere salvato dalla corruzione del peccato e del pensiero malvagio di questo mondo. Così, la donna che persevererà nella fede, nell'amore e curerà una famiglia, eviterà di essere trascinata da questo presente malvagio secolo, a differenza di quelle che, come scriverà in seguito, imparano ad essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto ad essere oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. 5:13. Quindi, se la donna non deve insegnare, né usare autorità sul marito, se deve stare in silenzio e sottomessa, è per il suo bene, è per la sua salvezza, è perché non svolga un ruolo diverso. Ma cosa vuol dire per una moglie essere sottomessa al marito? Vuol forse significare che la donna non può insegnare nulla al suo sposo? Vuol forse dire che non le è permesso di ribattere o di dire la sua, ma deve sempre accettare ciò che decreta il maschio? Non ha forse detto Paolo: ma stia in silenzio? Sposandosi, la donna si autocondanna ad una vita di schiavitù e di clausura? Il matrimonio è dunque per lei un suicidio della propria personalità? Domande più che logiche, lecite e opportune, alle quali occorre dare una risposta. Prima di rispondere direttamente, riporto alcune considerazioni di altri studiosi. C.G. Scorer si esprime così nel suo libro La Bibbia e il sesso oggi. Ma cosa significa questo termine sottomissione? Se si considerano gli altri suoi usi nel Nuovo Testamento, il suo significato non è difficile. E, usato per indicare la relazione tra cittadino e autorità civile, figlio e genitore, e di Cristo fanciullo, è specificamente detto che era loro sottomesso, discente e docente, peccatore e evangelo, Chiesa e Cristo, Cristo e Dio, infine tra tutta la creazione e Cristo. È evidente da questi esempi che sottomissione significa l'accettazione nella vita dell'esistenza di un ordine vero e naturale, nella vita con cui qualcuno offre protezione e sostentamento ad un altro, e in cui quest'altro trova vero sviluppo e scopo. E una relazione funzionale, pratica e mutuamente accettabile non implica necessariamente obbedienza, e certamente non implica obbedienza assoluta. Il concetto di obbedienza non è il primo pensiero, anche se può essere implicato, come nel caso di figli e genitori o di cristiani a Cristo. Pag. 94. E una riflessione molto buona, ma cerchiamo di ampliare l'aspetto che la sottomissione non implica l'ubbidienza, riportando ciò che dice Watchman Nee nel suo libro Autorità spirituale, nel paragrafo I limiti dell'ubbidienza all'autorità. La sottomissione è una questione che riguarda l'atteggiamento interiore, mentre l'ubbidienza è una questione di condotta. Pietro e Giovanni risposero al Sinedrio: giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. Il loro spirito non era ribelle, perché si sottomisero a coloro che erano in autorità. L'ubbidienza tuttavia non può essere assoluta. Bisogna ubbidire ad alcune autorità ma non ad altre, specialmente in materie riguardanti le basi della fede cristiana, come il credere nel Signore, la predicazione del Vangelo e così via. I figli possono dare dei suggerimenti ai loro genitori, purché lo facciano con rispetto e sottomissione. Questa dovrebbe essere assoluta. Talvolta l'ubbidienza e la sottomissione coincidono, mentre altre volte un'ubbidienza impossibile da attuare può ancora essere chiamata sottomissione. Anche quando avanziamo una proposta, dobbiamo mantenere un atteggiamento sottomesso. Non dovrebbe esistere una sola parola ingiuriosa, né uno spirito di insubordinazione verso le autorità. Chi conosce l'autorità si esprime con calma e pace, sarà in sottomissione completa, nel cuore, nella disposizione e nella parola. L'autore conclude ricapitolando le sue riflessioni in tre punti. 1. L'ubbidienza riguarda la condotta, ed è relativa. La sottomissione riguarda la disposizione del cuore ed è assoluta. 2. Solo Dio riceve un'ubbidienza totale ed assoluta. Ogni altra persona può soltanto ricevere un'ubbidienza relativa. 3. Se l'autorità delegata emana un ordine che è chiaramente in contrasto con il comandamento di Dio, vi si presterà sottomissione, ma senza ubbidienza. Dobbiamo sottoporci alla persona che riveste la posizione d'autorità delegata da Dio, però dobbiamo disubbidire all'ordine che offende Dio, Pag. 96. 97. Se vediamo questi principi in relazione all'ordine di Paolo che la donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio, allora iniziamo a comprenderne il vero significato della sottomissione. La donna non deve essere una schiava muta, ma il suo atteggiamento sarà quello di non imporre nulla al marito, cioè non usare autorità, e di non pretendere che egli accetti i suoi punti di vista, cioè non deve insegnare. Dopo aver spiegato le sue ragioni, la moglie porterà i suoi problemi e le sue necessità davanti a Dio, e cioè stia in silenzio. Non credo che questa interpretazione sia molto personale, perché, per quello che mi sembra di capire, tutte le donne sottomesse di cui parla la Scrittura si sono comportate così. Quando l'Apostolo Pietro ricordava che le donne speranti in Dio stavano soggette ai loro mariti, come Sara che ubbidiva ad Abramo chiamandolo Signore, implicitamente si ricordava l'episodio in Genesi 21 dove Sara disse ad Abramo di mandare via Ismaele perché non diventasse erede con Isacco. Benché Abramo non fosse d'accordo, più tardi acconsentì a tutto quello che Sara gli disse dietro ordine di Dio. Certo, oggi Dio non si rivela agli uomini come allora, ma la parola di Cristo esorta i mariti ad essere sensibili verso la propria moglie. Un altro esempio di sottomissione senza obbedienza lo vediamo nell'episodio della vita di Abigail al capitolo 25 di 1 Samuele. Davide chiede a Nabal di essere ricompensato per i favori prestati, ma questo gli rispose molto male e duramente. La moglie, venendo a sapere del fatto, sapendo che una sciagura sarebbe piombata sulla sua casa, senza dire nulla al marito, corse incontro a Davide con dei doni. E la prima cosa che disse fu: «O mio signore, la colpa è mia». Non diede la colpa al marito? Non lo disprezzò. Anche se più avanti, per forza di cose, dovette alludere al brutto carattere di suo marito. Ma forse l'esempio più bello di sottomissione, a mio avviso, è quello in merito alla donna sirofenicia raccontato nel Vangelo di Marco al capitolo 7. Questa donna pagana aveva chiesto a Gesù di guarire sua figlia, ma egli le aveva risposto: «Lascia che prima siano saziati i figlioli, che non è bene prendere il pane dei figlioli per buttarlo ai cagnolini». In poche parole Gesù voleva dire che prima egli avrebbe soddisfatto i bisogni dei giudei, poi si sarebbe rivolto anche ai pagani, i quali, secondo alcuni studiosi, meno al tempo di Gesù venivano chiamati cani. In pratica Gesù le ricordò che essa era come un cagnolino, cioè apparteneva ad una razza considerata inferiore dai giudei e quindi non degna di molte attenzioni. E la donna, avendo capito perfettamente questo discorso, rispose: «Dici bene, Signore, ma anche i cagnolini sotto la tavola mangiano delle briciole dei figli». Per questa sua risposta la donna sirofenicia fu esaudita perché non si ribellò all'apparente disprezzo, non andò via offesa, non rispose per le rime, ma accettò quest'umiliazione e con sottomissione chiese comunque di ricevere misericordia. L'argomento della sottomissione della donna non solo è sempre attuale, ma è di importanza vitale. Non solo per la famiglia, ma anche per la società, perché se una donna vive con uno spirito di sottomissione in casa, essa saprà pure essere sottomessa nella comunità. La Chiesa locale è composta di famiglie, le quali portano in seno alla Chiesa lo spirito che circola nelle case. Perciò È importante che prima gli uomini e poi le donne sappiano che cosa vuol dire essere sottomessi, poiché sono sempre più convinto che molti problemi sorgono a causa dell'ignoranza su questo soggetto. Infatti, anche su buoni libri si arriva a trovare certe riflessioni come questa che riporto testualmente. Non si possono imporre alla donna d'oggi, che può essere medico, ingegnere o ufficiale, ingiunzioni vecchie di 2000 anni, secondo le quali essa deve essere sottomessa al proprio marito. La donna emancipata di oggi deve essere pari al proprio marito. Una riflessione del genere dimostra che non tutti hanno compreso il significato del termine sottomissione e, ancora meno, le sue applicazioni. Le difficoltà della donna nell'essere sottomessa aumentano quando ella ha un discernimento morale e spirituale superiore al marito. Ho presente una moglie con un marito che è schiavo dell'alcol, il quale sembra animato dallo spirito di contraddizione per ogni cosa giusta e sensata. Come deve comportarsi? Questa moglie è costretta ad accettare cose che non ritiene giuste oppure può rifiutarle creando dolorose situazioni. Avendo chiarito che essere sottomessi non è sinonimo di ubbidienza assoluta, consideriamo un altro aspetto, riportando il commento espresso da Larry Christensen nel suo libro La famiglia cristiana. Essere attiva, intelligente e religiosa sono delle qualità nobili di una donna, ma la donna energica che tiene il proprio marito nell'inattività, quella intelligente che lo riduce al silenzio e con la conversazione brillante fa notare la mediocrità di lui, e quella religiosa che permette che gli altri osservino alla sua presenza che il marito è meno illuminato o meno progredito spiritualmente di lei, sono tre figure disgustose. Ma quest'ultima, cioè la religiosa, specialmente quando dimostra anche le caratteristiche della seconda, cioè l'essere intelligente, è la più disgustosa. Pag 38. L'autore ha voluto mettere in evidenza un aspetto molto delicato ma che purtroppo rispecchia la realtà di tanti matrimoni, cioè vi sono donne virtuose che fanno della loro virtù prima di tutto uno scudo di protezione per coprire i loro eventuali e ripugnanti difetti e poi per schiacciare la personalità del marito. Perciò la sottomissione della donna è tale anche quando è vissuta con l'atteggiamento morale giusto e non a caso la scrittura elogia la donna forte e virtuosa, oltre che per le sue capacità amministrative e pratiche, anche perché, come sta scritto, suo marito è rispettato davanti a tutti, Proverbi 31. Il compito della donna è quindi quello di esprimere i propri doni, le proprie capacità, senza adombrare il marito, mentre il compito del marito sarà quello di essere orgoglioso, di avere una moglie dotata di talenti e di far sì che questa si realizzi e sia soddisfatta. E questo per la coppia è certamente il compito più difficile, perché all'istinto maschile è legato un egoismo che non può essere superato se non mediante una viva preoccupazione per la sensibilità della donna e nell'istinto femminile ci è la tendenza di voler eguagliare se non adombrare l'uomo in tutto. L'autorità dell'uomo e la sottomissione della donna quando sono vissuti nei giusti ambiti recano guarigione in una società malata di protagonismo, di egoismo e romanticismo. Infatti, l'autorità dell'uomo non gli è stata data perché pensasse a se stesso, ma perché provvedesse all'interesse e al bene della donna. L'autorità non è una poltrona ma un timone, non è un titolo di nobiltà ma di responsabilità. Non si è in una posizione di autorità per comandare con passione di dominio o per sfogare i propri complessi di inferiorità, ma per il desiderio di donarsi. Sa comandare chi sa servire. Quindi, il potere che possiede l'uomo sulla donna sarà moderato, purificato dall'amore divino che non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Una sola affermazione dell'Apostolo Pietro può illuminare oggi l'uomo del XXI secolo e far sì che egli non si renda colpevole verso la metà della razza umana. Parimenti voi mariti, convivete con le mogli con la discrezione dovuta al vaso più debole CH, è il femminile. Portate loro onore, poiché sono anch'esse eredi con voi della grazia della vita, onde le vostre preghiere non siano impedite. 1 Pietro 3, 7. Un uomo può essere un grande predicatore, un grande evangelista, un grande missionario, un grande scrittore, un grande conoscitore della scrittura, stimato e onorato da tutti. Ma se non onora la propria compagna, ha fallito l'obiettivo del suo mandato e le sue preghiere non sono esaudite. Che taglio netto all'orgoglio maschilista! Le risposte alle preghiere sono condizionate dall'atteggiamento che si ha nei confronti della donna. A volte si cerca oltreoceano la causa della freddezza spirituale e non ci si degna neppure di pensare se sia un atteggiamento sbagliato verso colei che ci dorme accanto. Dunque, la donna è un aiuto convenevole per il maschio. Sta all'uomo saper gestire la sua autorità su di essa perché solo assieme a lei può crescere. E questo è il dramma. Se la donna non cresce e non matura, l'uomo segue la sua sorte. O si realizza assieme alla donna, o la rovina è reciproca. Non sono esseri indipendenti. E se una casa è divisa in parti contrarie, non può sussistere. Così l'uomo e la donna che non sono in armonia non possono crescere nella pace, perché la pace, afferma Agostino, è l'ordinata concordia di chi comanda e di chi obbedisce, è la tranquillità dell'ordine. Una società, quindi, non può crescere armonicamente se eviterà di affrontare argomenti riguardanti la donna. Che si voglia o no, ella influenza la società e le chiese di Dio. Forse il vero e reale problema in merito alla sottomissione della donna non è tanto quello di capire che cosa comporta la sottomissione, perché in fondo è comprensibile, ma è l'atteggiamento che si nutre nei confronti della parola di Dio. Perché ci sia armonia tra l'uomo e la donna, la sottomissione alla parola di Dio deve essere totale, altrimenti non è sottomissione. Accettare solo ciò che si accorda con la nostra logica o il buon senso significa dimenticare che i pensieri di Dio non sono come i nostri, Isaia 55:8-9, e che dal nostro cuore e dalla nostra mente non possono nascere idee simili a quelle di Dio, 1 Corinzi 2:9. Scrive Watchman Nee: tra i figli di Dio vi è il seguente grosso problema. Molti di essi hanno un buon cuore e anche il loro comportamento non è per nulla male. Ma possiedono una testa che appartiene ancora alla vecchia creazione. In altri termini, la loro vita è la vita di Cristo, ma la loro testa è quella del vecchio Adamo, e perciò non capiscono la volontà di Dio. Se ora vogliamo misurare fino a che punto un cristiano è cresciuto nella vita spirituale, è sufficiente misurare la sua testa. Noi possiamo ragionare intorno alle cose di Dio, ma non possiamo far diventare la nostra comprensione la verità. Noi investighiamo le cose di Dio, ma la nostra teologia non è la verità. Come teologo, il diavolo è il migliore tra noi tutti, eppure è ancora un diavolo. Dobbiamo accettare globalmente e senza riserve ciò che Dio ha rivelato. E tra queste rivelazioni dobbiamo accettare anche l'autorità dell'uomo sulla donna e la sottomissione della donna all'uomo. Come disse qualcuno, l'inquieta sfiducia della donna nell'autorità maschile è il punto cruciale della sventura femminile. L'opinione corrente sostiene che non dovrebbe esserci distinzione tra l'uomo e la donna nell'ordine sociale e che se solo la donna si emancipasse dal ruolo di sottomissione all'uomo, le sue pene cesserebbero. Questa opinione accusa l'ordine creazionale di Dio e non fa che affondare nelle sabbie mobili ogni relazione. È evidente che il lavoro secolare, anche se svincolato dalla sottomissione all'uomo, porta autogratificazione ed entusiasmo. Basti pensare agli stimoli provenienti da personaggi interessanti, il desiderio di viaggiare, il fascino e l'attenzione riscuotibili, le sfide intellettuali. Ma non c'è nulla di più pietoso al mondo di una donna che ha tutto quello che vuole, che si è realizzato ovunque e ha fallito il suo scopo principale, la sottomissione all'uomo. Una giusta presenza femminile in questo mondo è determinante perché il suo lavoro, il suo parlare, i suoi consigli non lasciano intatto l'uomo. Come Eva influenzò Adamo, ancora oggi la donna ha mantenuto questa sua naturale inclinazione. E se le conseguenze di allora furono prima a suo danno e poi all'uomo, oggi le cose non sono cambiate. Quindi se è un appello rivolto all'uomo di avere attenzioni e cure verso il vaso più debole, È uno rivolto alla donna perché essa usi la sua naturale influenza per ciò che onora l'uomo, perché da lui dipende il suo benessere materiale e spirituale, e perché il suo grande compito di sottomissione è ciò che tiene in equilibrio la razza umana. Gennaio 2007.